Ecco, innanzitutto, come sapete, 16 di agosto, giornata senza quotidiani, giornata senza quotidiani che ci porta inevitabilmente a un percorso attraverso l'attività dell'editoria digitale che è attiva, che è stata attiva nella giornata di ieri. E allora cominciamo oggi, facciamo appunto una lettura di quella che è l'offerta dei principali siti. Ne trovate ovviamente molti, trovate i siti generalisti, trovate poi quelli che è sempre un aspetto affascinante del mercato digitale, appunto la possibilità di muoversi rapidamente al di fuori dei nostri confini. Ma cominciamo allora in un ambito nazionale, poi vediamo di dare un'occhiata anche a cosa succede intorno a noi. Allora, il Sole 24 Ore di questa mattina, il sole24ore.com, ovviamente, che da un lato ci porta nel tema della spending review. La spending review lavora a Ferragosto, parte la stretta sugli affitti della pubblica amministrazione e gli sconti sui farmaci. Quindi la revisione della spesa sempre al centro dei temi di giornata, che sia nel cartaceo o nel digitale. La spending review dunque lavora a Ferragosto, farmaci, ma anche acquisti promossi dalle pubbliche amministrazioni, attività di restauro promosse dai privati, dismissione di immobili da parte degli enti previdenziali, persino l'Ippica, racconta Andrea Carle oggi appunto su sole24ore.com. Sono alcuni dei settori su cui il provvedimento varato dal governo Monti produce effetti immediati. Tutte novità che, se paragonate al riordino delle province, alla riduzione dei posti letto negli ospedali o alla salvaguardia di altri 55.000 lavoratori esodati, hanno forse una valenza più contenuta, ma non per questo meritano di passare sotto traccia. E allora, brutte notizie per gli amanti dell'arte e per chi guarda ai cavalli. Nel primo caso, da oggi sono sospesi fino al 31 dicembre 2015 i contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali. Nel secondo c'è l'addio all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI, dalla sanità alla pubblica amministrazione. Allora, che cosa cambia oggi? Estrapoliamo, prosegue Andrea Carli, nel calderone, tanto per capirci, tutte quelle misure che si applicano a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulla spending review, quindi da oggi. Lo sconto dovuto all'SSN dai farmacisti diventa del 2,25%, quello sulle spalle delle aziende farmaceutiche, e da queste versato direttamente alle regioni, passa al 4,1%. Se la sanità è in prima fila, la pubblica amministrazione segue a ruota. Da oggi, infatti, nulli i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione che violano l'obbligo di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip. In questi casi, dunque, scatta l'illecito disciplinare e la responsabilità amministrative. Nelle gare, poi, è vietata la discriminazione delle piccole e medie imprese. Ancora, da Ferragosto, per i contratti di locazione passiva stipulati nella pubblica amministrazione che scadono o vengono rinnovati, i canoni vanno ridotti del 15% rispetto a quanto corrisposto in precedenza. Dunque, la pubblica amministrazione viene investita anche sul lato enti previdenziali per agevolare le dismissioni immobiliari di questi soggetti. Infatti, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni non può essere inferiore a 120 giorni. La spending review, dunque, che lavora anche a Ferragosto, la stretta sugli affitti della pubblica amministrazione, gli sconti sui farmaci. Questa è una delle notizie che questa mattina trovate su sole24ore.com, dove peraltro naturalmente ci sono altre le principali notizie di giornata che si riferiscono al giallo sui piani d'attacco di Israele contro l'Iran. Sapete, un blogger che mette i documenti su internet, un blogger americano che sostanzialmente rivela dei documenti. Si tratta di Richard Salverstein, che ha pubblicato sul suo sito Tikkun Olam, stamattina peraltro quasi inaccessibile, riparare il mondo letteralmente in ebraico, e pubblica un estratto di un dossier che gli sarebbe stato dato da una fonte israeliana di alto livello. Questa è una delle notizie principali che troviamo sui maggiori siti, e poi naturalmente sempre in tema di spending review, di tagli e di razionalizzazione, ampio spazio all'intervento del ministro Cancellieri quando parla di tagli senza furori ideologici. Il governo razionalizzerà le scorte, dunque la vicenda scorte di cui abbiamo parlato anche ieri ampiamente. Naturalmente da una parte la questione che riguarda il presidente della Camera Fini, la presenza di una scorta per settimane, cioè l'affitto di stanze appunto al mare per la scorta, una vicenda che ha suscitato una violenta polemica tra il quotidiano Libero e il presidente della Camera, ma insomma, e poi in generale quello che è il tema della razionalizzazione. Ora Cancellieri dice: il governo farà una razionalizzazione delle scorte anche di primo e secondo livello, ma i tagli verranno fatti con molta attenzione, in quanto, dice, questo paese piange ancora morti che non sono state adeguatamente protetti. Così il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nell'incontro di Ferragosto con i giornalisti, sottolineando che si agirà senza furori ideologici, con l'obiettivo unico di tagliare dove si annidano gli sprechi. Tutto questo naturalmente garantendo, almeno questa è la premessa che fa il ministro, i livelli di sicurezza. Intanto, dopo l'appello del capo dello Stato Giorgio Napolitano affinché i tagli alla spending review siano equi e socialmente sostenibili, dal governo arrivano appunto segnali di disponibilità nuova. Così lo ribadisce il ministro nella trasmissione radiofonica su Radio 1, che ha parlato di piani del comparto sicurezza. Dice: non dovremo più tagliare, ora dovremo cercare di ridurre il danno in modo da poter comunque garantire i livelli di sicurezza indispensabili. Questi due dei grandi temi, così come ampio spazio in Italia e non solo, quindi sul piano internazionale, a la Siria, naturalmente la perdurante lunga crisi che assume in queste settimane anche come dire aggravata anche dal moltiplicarsi di denunce, di registrazioni di violenze e crimini contro l'umanità. A questo punto anche l'ONU si esprime in questo senso, dice che nella guerra civile in Siria si moltiplicano appunto i crimini contro l'umanità, che rispetto alla violenza, per quanto appunto sanguinosa, di un conflitto, di una guerra civile, ha la caratteristica della sistematicità, della programmazione, insomma un ulteriore livello di violenza sistematica, in questo caso da parte del regime appunto di Assad. Si è parlato a lungo in questi giorni anche delle violenze da parte della ribellione. Da questo punto di vista il rapporto ONU non le nega, non le smentisce, ma sostanzialmente afferma siano di portata meno gravi. Allora vediamo dal Corriere.it: Siria, inchiesta ONU, forze del regime colpevoli di crimini contro l'umanità. Sono torture e violenze indiscriminate, arresti arbitrari, negazione delle più elementari norme di diritto. L'ONU denuncia i crimini di guerra commessi in Siria negli ormai 17 mesi del conflitto, che confronta le forze del governo di Assad alle milizie degli insorti. Colpevoli tutti, secondo il rapporto finale della commissione d'inchiesta, le forze governative siriane e le milizie fedeli al regime Shabiha si sono macchiate entrambi di gravi crimini di guerra, con qualche distinguo però. Dunque anche i ribelli, scrive l'articolo, che combattono l'articolo del Corriere, dicevo, combattono il regime di Assad, hanno commesso le violazioni, ma le loro responsabilità non raggiungono la gravità, la frequenza, l'intensità di quelle dell'esercito. È un rapporto di 102 pagine presentato da Paolo Pinheiro, capo degli investigatori sui diritti umani delle Nazioni Unite. Dice: la Commissione ha trovato fondati motivi per ritenere che le forze governative abbiano commesso omicidi e torture, gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, inclusi omicidi illegali, arresti, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali, attacchi indiscriminati, saccheggi e distruzione di povertà proprietà, scusate. In questo caso dunque una condanna senza appunto appello alle forze governative in un'indagine che copre un periodo compreso tra il 15 febbraio e il 20 luglio, un'indagine che è soprattutto realizzata attraverso una lunga serie di interviste sul campo, quindi in particolare nei campi profughi ormai che circondano la Siria, in tutto 1062 persone ascoltate, il loro racconto registrato. Il gruppo, infine, guidato dal diplomatico professore brasiliano Paolo Pinheiro, includeva anche la statunitense Karen Abusiad, il capo del United Nations, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e ha dunque confermato e condannato implicitamente l'attività svolta dal regime. In un'ultima notizia, l'articolo conclude ricordando che dall'inizio del conflitto sarebbero morte 23.000 persone in Siria. Intanto abbiamo fatto le 7:30 minuti, direi che possiamo sentire insieme qualche aggiornamento sul fronte del meteo, che si annuncia peraltro caldo e con un ritorno appunto a temperature molto elevati. Poi proseguiamo insieme, a dopo. 24 mattino, estate. Ferragosto purtroppo non ha registrato, come dire, non è stato a effetto zero per quello che è una tragedia quotidiana che va in scena sulle strade italiane. Allora, in particolare, la stampa.it stamattina fa il punto di il bilancio degli incidenti stradali, partendo tra l'altro proprio da una parte della conferenza stampa di ieri che abbiamo già citato per altre questioni con il ministro Cancellieri. Insomma, ancora incidenti mortali sulle strade e il Viminale ricorda: in un anno sono 2.000 le vittime. Ieri la lunga scia di sangue anche sul Ferragosto. Due giovani sono morti a Mazzano in provincia di Brescia sulla statale 45 bis, la moto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro l'auto che li precedeva, ferma per un tamponamento. I due sono stati sbalzati dal mezzo andando a finire sull'asfalto. Per la ragazza, 20 anni, non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, 23 anni, che guidava la moto, è stato trasportato dall'elisoccorso in ospedale ma è morto due ore dopo. In un altro incidente avvenuto a Marina di Carrara, alle 2:30 della notte scorsa, un giovane di 29 anni ha perso la vita non lontano dalla sua abitazione. Guidava una Opel Corsa che si è schiantata contro un albero e poi si è ribaltata. Infine, a Roma, un altro ragazzo investito dopo le 21 da una vettura, da una BMW. Il giovane è morto dopo essere arrivato all'ospedale Sandro Pertini. E conclude la nota di cronaca: i genitori avrebbero deciso di donare gli organi. Ecco il dato complessivo: tra il 1 agosto dell'anno scorso e il 31 luglio di quest'anno sono morte sulle strade e le autostrade 2058 persone, sono quasi 6 al giorno, mentre altre 63.397 sono rimaste ferite. I dati sono stati resi appunto noti dal Viminale in occasione dell'incontro di ieri, quello appunto con il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Complessivamente si sono verificati, pensate, 87.605 incidenti, di cui 1.889 con esito mortale. E sul fronte dei controlli sono state accertate oltre 2.700.000 infrazioni, mentre sono stati oltre 1.800.000 i controlli con etilometri e precursori. Forte impegno anche per quanto riguarda le manifestazioni, in un anno se ne sono svolte 10.000 in Italia, ma insomma questa è un'altra storia. Questo riguarda naturalmente l'attività e l'impegno della polizia. Io vorrei concentrarmi ancora su questi numeri davvero impressionanti che riguardano tutti noi, che parlano, lo ricordo, di 2.058 persone uccise sulla strada, di 63.397 rimaste ferite. Anche questo naturalmente è una parte del bilancio di Ferragosto, e vediamo altre notizie che sono sì presenti sui quotidiani online italiana questa mattina, ma in realtà ben più presenti su altre testate. In particolare mi riferisco alla crisi esplosa improvvisamente tra Gran Bretagna ed Ecuador, riguarda Julian Assange, dunque l'autore, curatore di Wikileaks. Che cosa accade? Allora, il governo ecuadoregno ha denunciato la minaccia ricevuta dalle autorità britanniche di un attacco all'ambasciata del paese sudamericano a Londra, in cui da 2 mesi si è rifugiato Julian Assange, appunto, il fondatore di Wikileaks, ricercato dalle autorità svedesi per essere interrogato in un caso di abusi sessuali. L'editore australiano, peraltro, ha chiesto alle autorità di Quito di concedergli l'asilo politico sulla base della possibilità che la Svezia lo estradi negli Stati Uniti, dove sul suo capo pendono accuse pesanti per le rivelazioni compiute dal suo sito 2 anni fa a proposito delle attività del Dipartimento di Stato. Una minaccia che gli legali, appunto, di Assange hanno più volte sottolineato potrebbe teoricamente essere anche sanzionata con la pena capitale per alto tradimento. Assange agli arresti in Inghilterra dopo che l'alta corte della Gran Bretagna aveva rifiutato il suo ricorso contro la richiesta di estradizione svedese, appunto chiede dunque aiuto al governo dell'Ecuador, ma adesso la vicenda assume i contorni di una crisi internazionale. Allora vale la pena vedere come i due quotidiani dei paesi coinvolti vedano la faccenda. E da una parte un Guardian, quindi su theguardian.co.uk, che dice Julian Assange can be arrested in embassy, quindi può essere arrestato all'interno dell'ambasciata, riporta sostanzialmente quello che è il cuore del testo inviato dal governo britannico a quello di Quito dell'Ecuador, e avverte UK, avverte Ecuador, quindi il Regno Unito avverte l'Ecuador. Tutto questo però cambia tono, modo e proprio davvero temperatura se lo vediamo con gli occhi di El Universo. El Universo è uno dei principali quotidiani di Quito. Nel eluniverso.com leggiamo come il regime denuncia la minaccia britannica nel caso di Julian Assange. A centropagina sull'edizione appunto online dell'Universo si vedono anche le foto della manifestazione violenta che si infrange di fatto contro il cordone di polizia all'esterno dell'ambasciata del Regno Unito a Quito. La comunicazione che probabilmente da parte delle autorità britanniche doveva rimanere riservata esplode come un caso politico e suscita in primo luogo delle forti proteste di piazza contro quella che viene considerata, appunto, con lo sguardo oggi visto dall'Ecuador, una aggressione, una minaccia da parte del Regno Unito. Tutto questo in un momento critico perché l'annuncio della decisione da parte di Quito sull'asilo politico a Julian Assange è atteso per oggi, quindi 7 del mattino ora di Quito, saranno le 14 in Italia. Ecco dunque che l'apice di questa tensione si spiega. La decisione favorevole sulla concessione dell'asilo politico è stata anticipata proprio dal Guardian. Poi le autorità hanno negato che la conclusione delle autorità ecuadoregne hanno negato che il processo sia già stato di fatto definito. Insomma, una fortissima pressione intorno a questa vicenda, e vedremo nelle ore a venire appunto quali saranno gli sviluppi. Intanto proprio l'Universo annuncia da un lato che viene confermato il tempo della decisione, quindi gli orari, che come abbiamo detto saranno legati alla prima mattina sudamericana, e contestualmente anche a una riunione d'urgenza dell'Assemblea nazionale. Ecco qua dunque il caso Assange, che davvero ha tutte le caratteristiche di un grande giallo internazionale. Lui che appunto australiano, che però di fatto è richiesto almeno da due paesi il cui arresto è sullo sfondo, quelle rivelazioni che riguardano i dati sensibili sulla sicurezza americana, che appunto spingono Assange a dire di essere in pericolo di vita. A proposito di dati sensibili, ampio spazio su tutti i quotidiani di fatto del mondo sui piani d'attacco di Israele contro l'Iran. Avete sentito, un blogger dunque mette i documenti su internet, un attacco coordinato che includa anche un'aggressione cibernetica senza precedenti, in grado di paralizzare totalmente il regime iraniano. Questo sarebbe il quadro appunto previsto dalle autorità di difesa e sicurezza di Israele. E i presunti piani di guerra di Israele contro Teheran sono stati rivelati dal blogger israelo-americano Richard Silverstein, che ha pubblicato sul suo sito Tikkun Olam, riparare il mondo in ebraico, un estratto di un dossier che gli sarebbe stato dato da una fonte israeliana di alto livello, che a sua volta l'avrebbe ricevuto da un ufficiale delle forze di difesa. Allora, perché il documento sarebbe stato passato? Perché, secondo la sua fonte, quindi la fonte militare interna di Israele, questi non sono tempi normali, e temo che Bibi Netanyahu, premier di Israele, e Barak, ministro della difesa, facciano maledettamente sul serio. Il dossier rivela, ammesso che sia vero, il piano di attacco in tre fasi. Nella prima ci sarebbe l'impiego della tecnologia più sofisticata per mettere capo internet, telefoni, radio, tv, insomma tutte le comunicazioni satellitari, ma anche quelle fisiche in fibra, e quindi di fatto isolare i centri di potere economico e militare iraniane, comprese le basi missilistiche sotterranee, quelle di Khorramshahr e di Isfahan in Iran. Per la seconda fase sarebbe previsto il lancio di decine di missili balistici in grado di coprire la distanza contro appunto di decine di missili balistici lanciati contro la Repubblica Islamica dai sottomarini israeliani posizionati vicino al Golfo Persico. Missili che, sempre secondo la fonte, non sarebbero dotati di testate convenzionali, ma con punte rinforzate progettate per penetrare in profondità. In questo caso il dossier fa riferimento ai siti sotterranei come quello di Fordo, forse quello che più preoccupa Israele, perché è scavato in una montagna vicino a Qom, a una profondità tale che si presume sia fuori dalla portata delle bombe perforanti. Dopo la prima ondata di attacchi, che saranno cronometrati al secondo, un satellite passerà sopra l'Iran per valutare danni agli obiettivi. Le informazioni saranno quindi trasferite agli aerei di guerra dotati di tecnologia sconosciuta al grande pubblico e anche all'alleato americano, invisibili ai radar e inviati in Iran per finire il lavoro, colpendo un elenco ristretto di obiettivi. Questa la sintesi di quella che è appunto la rivelazione del che emerge attraverso il blogger Richard Silverstein, un rapporto che tiene conto anche di perdite interne allo Stato di Israele e che ancora una volta, già un anno fa in realtà, ci trovavamo confrontati con gli interrogativi sulla possibilità di un'azione israelo-americana nei confronti dell'Iran. Ecco che un nuovo elemento di forte preoccupazione emerge proprio attraverso l'editoria online. Bene, 7:46 minuti, è tempo di sentire subito come vanno le cose sulle strade italiane. 24 mattino, estate. Vediamo qualche altra prima pagina oggi appunto online. Il cardinale Bagnasco contro le unioni gay per il secolo XIX. Il presidente della CEI condivide la presa di posizione dei vescovi francesi contro le proposte governative sulle convivenze tra persone dello stesso sesso. Poi in Siria, crimini contro l'umanità e un ampio approfondimento sull'inchiesta e la presunta corruzione giudiziaria legata all'acciaieria di Taranto. Il titolo è Le mani dei Riva sui controlli alla Ilva. E poi ancora QN, dunque Giorno, Resto del Carlino, La Nazione, l'apertura del sito è dedicato alla Spending Review, quindi il ministro Cancellieri di cui abbiamo parlato, ma anche la posizione, la rinnovata posizione di Clini e quindi del governo sul caso Ilva. Leggiamo: nessun decreto, seguiremo la strada prevista dalla legge. Domani è previsto intanto l'arrivo di tre ministri, ne abbiamo parlato, all'impianto di Taranto. C'è spazio anche per ricordare come Ferragosto, che ci abbiamo appena lasciato alle spalle, ma insomma anche questo ponte per molti di Ferragosto è un Ferragosto di fuoco, incendi in tutta Italia e il super lavoro dei pompieri, della forestale e della protezione civile. Così leggiamo: fuoco nel cuore del Parco del Cilento, situazione difficile in Liguria, 8 roghi nel Lazio, quasi sicuramente opera di un piromane l'incendio che ha distrutto 4 ettari di bosco in provincia di Firenze. Alterniamo notizie nazionali a notizie internazionali. Ieri vi abbiamo parlato raccontando appunto dalle prime pagine, c'erano ampie fotografie su un test che suscitava grande curiosità, per quanto il test del X-51A, il volo ipersonico, è andata male, è andata storta, fallisce l'ultimo test del Superjet, l'X-51A Wave Rider finisce nel Pacifico. Il super velivolo del futuro non supera il test perché il propulsore, l'innovativo propulsore, in realtà non ha avuto neanche il tempo di accendersi. È finito male ben prima del previsto il test del prototipo X-51A, costruito dalla DARPA, l'Agenzia di Ricerca della Difesa assieme alla NASA. Doveva alla vigilia di Ferragosto affrontare un test cruciale di funzionamento del suo propulsore, lo scramjet, rimanendo acceso per 300 secondi. Questo obiettivo, questi 300 secondi, lo avrebbero portato verso la velocità incredibile dei 7 Mach, dunque 7 volte la velocità del suono. Pensate che oggi, per quanto ci siano stati fatti grandi passi in avanti, grande sviluppo sulla velocità assoluta, ma anche per quanto riguarda i più evoluti cacciabombardieri, insomma la zona operativa è quella dei 3 Mach fondamentalmente. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa che va oltre il doppio, o meglio che andrebbe a più del doppio l'obiettivo. E questo doveva essere il terzo test vincente dopo il primo, che era stato un test parzialmente positivo, il secondo un fallimento. Invece le cose sono andate peggio ancora del secondo. Allora ecco cosa è accaduto, ci racconta oggi sul Corriere.it Giovanni Caprara. Ecco un bombardiere B-52 decollato dalla base sperimentale di Edwards, quella dell'aviazione militare, nota per parecchie operazioni, la grande base alle spalle di Los Angeles. Arrivato dopo qualche minuto di volo nel cielo del Naval Air Warfare Center di Mogu alle 11.34 locali, ha sganciato l'X-51A appeso sotto la sua ala sinistra. La separazione è avvenuta senza problemi, secondo il portavoce dell'Air Force in Iowa che gestisce l'operazione, quindi un'operazione che coinvolge tutto, diciamo, l'apparato militare americano. Dopo qualche secondo si accende il razzo di cui è dotato il prototipo e che serve ad accelerare la sua corsa verso quei 5.000 km orari che di fatto sono la base da cui il motore scramjet può entrare in funzione. Infatti al di sotto di questo livello non può essere acceso. Purtroppo dopo 16 secondi una delle alette del velivolo manifestava un problema e quando 15 secondi dopo l'X-500A si è staccato dal razzo, i computer di guida non sono stati più in grado di controllare il velivolo che è andato a perdersi ingloriosamente nelle acque del Pacifico, dove vanno a finire molte delle esperienze aerospaziali degli americani, non solo, basterà ricordare l'affondamento pilotato della Mir ormai qualche anno fa. È stato una sfortuna che un problema a questo sottosistema abbia concluso in anticipo la prova, ha commentato Charles Blink, program manager del progetto. Tutti i dati che abbiamo ricevuto fino a quel momento ci dicevano che il propulsore era in ottime condizioni per funzionare. Il sistema che ha fallito in questa occasione non aveva dato problemi nei voli precedenti 2010-2011. Adesso una commissione tecnica cercherà di capire il perché del guaio, ma per il momento i responsabili del laboratorio della US Air Force non possono dire se e come avverrà un nuovo test. Insomma, finale inglorioso per un finale, in realtà, come sempre in queste circostanze non è mai finale, ma insomma una tappa ingloriosa per questa sperimentazione. A proposito di inglorioso, oggi alterno con molta libertà dal mondiale al locale e quindi con il fattoquotidiano.it andiamo in Molise, dove apprendiamo: il Molise taglia le indennità ai dirigenti e vitalizia gli ex consiglieri, anzi no. Il presidente Iorio, scrive oggi il fattoquotidiano.it, aveva sbandierato le nuove norme anticasta, ma questi hanno giurato di dare battaglia fino alla Corte Costituzionale e dopo l'annullamento del voto da parte del TAR e probabili elezioni alle porte, la giunta ci ripensa. Le prebende sono ristabilite, il maltolto dunque alla fine è stato restituito agli ex consiglieri regionali e così hanno potuto cantare vittoria. Il loro vitalizio, per il quale la finanziaria regionale aveva inizialmente previsto una riduzione del 25%, non sarà toccato. Nei giorni scorsi il consiglio regionale, su sollecitazione del governatore Angelo Iorio, è dovuto tornare sui propri passi e votare le modifiche alla legge approvata lo scorso 26 gennaio. Ecco, questo è una notizia che ci riporta dalle nostre parti e che ci riporta a un tema che resta estremamente sensibile, un tema davvero caldo di questa estate, quello dei costi, non solo, quello dei costi della politica. Ancora abbiamo tempo per una prima pagina di quelle, appunto, naturalmente digitale, lo ricordo, in questa giornata senza quotidiani, ma il messaggero.it, l'apertura oggi è dedicata all'intervento del ministro Cancellieri, poi ampio spazio per quanto riguarda il confronto che l'Ecuador ritiene particolarmente minaccioso con Londra, ma anche storie più locali che ci raccontano un nuovo guasto alla metro bloccata e a una vera e propria via crucis per un disabile giapponese. Foro romano, via crucis per una disabile giapponese. L'aria chiude, turista costretto a scendere dalla carrozzina. È una scena che non si dimentica, scrive Claudio Marincola, da mostrare nelle scuole per capire tutto quello che non bisogna fare se si ha rispetto per i disabili. Andrebbe proiettata al rallenti, frame dopo frame, per capire fino a che punto si può arrivare quando saltano le convenzioni elementari del vivere sociale. Sarebbe passata inosservata se qualcuno non l'avesse filmata e mostrata. Sono passate da poco le 18, il foro romano chiude, l'altoparlante invita i visitatori a lasciare l'area, l'annuncio viene dato in più lingue, qualcuno si attarda per le ultime foto. A questo punto una famiglia giapponese si indirizza verso una delle uscite, quella che sbuca all'altezza del carcere Mamertino. Uno dei componenti è un'anziana disabile che avanza su una carrozzina. Non ci sono cartelli, il gabbiotto è vuoto. Da un anno il personale è stato sostituito dai tornelli. L'anziana ha sbagliato strada. Se avesse seguito le indicazioni scritte all'entrata, saprebbe che l'unica uscita per i portatori di handicap è quella di largo della Salaria Vecchia. Ma insomma, lei ha sbagliato strada e ora si trascina fuori.